Libro di Ruth, episodio 6. Anime che si incontrano. Leggo nella Bibbia, in Ruth capitolo 2, versi 8 a 16. Allora Boaz disse a Ruth: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete, andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi avranno attinta». Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: «Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me, che sono una straniera?» Boaz le rispose: «Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuto a rifugiarti». Lei gli disse: «Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu m'hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve». Poi al momento del pasto Boaz le disse: «Vieni qua, mangia del pane e intingi il tuo boccone nell'aceto». E lei si mise seduta accanto ai mietitori. Boaz le porse del grano arrostito e lei ne mangiò, si saziò e ne mise da parte gli avanzi. Poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: «Lasciatela spigolare anche fra i mannelli e non offendetela. Strappate anche per lei delle spighe dai covoni e lasciatele lì perché le raccolga e non la sgridate». Dopo essersi informato nei confronti di Ruth, Boaz aveva compreso che quella giovane moabita meritava di essere trattata con rispetto. Boaz dimostra di essere un vero gentiluomo, mostrando grande sensibilità verso una donna che, pur essendo straniera, aveva abbandonato il suo paese e la sua famiglia per prendersi cura di sua suocera. Ma soprattutto Boaz dimostra di essere un uomo che teme davvero il Signore e sa quindi apprezzare le cose importanti. Altri uomini avrebbero piuttosto guardato all'aspetto fisico di Ruth, ma Boaz è evidentemente colpito dal comportamento di quella giovane moabita che aveva mostrato una grande fede nel Dio di Israele, accettando di andare a Betlemme tra mille incertezze. Ruth si accorse subito di avere davanti un uomo davvero gentile. Non sembrava infastidito dalla sua presenza, anzi, le permetteva di rimanere a spigolare con le sue serve e di bere l'acqua attinta dai suoi servi. Ruth non riuscì a fare a meno di chiedere a quell'uomo come fosse possibile che le riservasse tante attenzioni, anche se lei era una straniera. Boaz dichiara in maniera esplicita di essere stato colpito da ciò che Ruth aveva fatto per sua suocera. Ruth aveva mostrato di avere dei valori che Boaz non poteva ignorare. Queste prime battute ci mostrano due anime che temono Dio e sanno subito riconoscersi a vicenda. Tra loro sembra nascere in maniera naturale una simpatia non basata sull'aspetto, ma sulle qualità interiori. La fede di Boaz emerge in maniera specifica quando la benedice, chiedendo a Dio di ricompensarla in maniera abbondante, rendendole il contraccambio per ciò che lei aveva fatto. Egli riconosce che quella ragazza si era rifugiata sotto le ali del Dio di Israele e non può fare a meno di chiedere a quel medesimo Dio di mostrare la sua grazia verso quella ragazza così coraggiosa e amorevole nei confronti della suocera. Le parole di Boaz fecero subito breccia nel cuore di Ruth, che si sentì apprezzata in un modo che non si sarebbe mai aspettata da un uomo israelita. Quell'uomo gentile aveva davvero parlato al suo cuore. Il modo in cui permise a Ruth di mangiare con il resto dei mietitori e gli ordini che diede ai suoi servi di facilitarle il compito, lasciando cadere appositamente delle spighe per lei, dimostrano che Boaz non aveva solo invocato le benedizioni di Dio su Ruth, ma si era messo lui stesso a disposizione di Dio per benedire quella ragazza e renderle da subito la vita più facile. molti uomini, anche nella nostra società, sono piuttosto colpiti dall'aspetto fisico di una donna, ma mostrano scarso interesse per le sue qualità interiori. Ciò che mi rattrista è vedere che anche molti giovani cristiani dimostrano scarsa attenzione agli aspetti caratteriali di una donna e per questo motivo commettono gravi errori nella scelta del proprio coniuge, costruendo matrimoni destinati al fallimento. Mentre ci sono donne straordinarie che essi non degnano neanche di uno sguardo. Un uomo che ama Dio dovrebbe saper riconoscere una donna che ama Dio e una donna che ama Dio dovrebbe essere in grado di riconoscere un uomo che ama Dio. Il primo incontro tra Ruth e Boaz fu proprio un incontro di anime che temono Dio e sanno riconoscersi l'un l'altra.